Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Vediamo il menù di questa puntata. Cominciamo con la seconda parte, intervista a Guido De Maria, un vero protagonista della nostra scena dell'animazione dei fumetti. La puntata proseguirà poi con la parte finale delle Marionette in fuga, questo testo rodariano letto dallo scrittore Massimo Vitali. Quindi sarà Volta di 42 la risposta, che interpellerà Sara Colaone nella sua ultima produzione Ti ho visto. Buon ascolto. Guido De Maria, perché proprio Modena? Nel senso, c'è tutta questa, e tuttora Modena è molto vivace. Modena è stata una città che ha sempre in qualche modo regalato al mondo del divertimento disegnatori straordinari. Sai, Modena ha avuto Mario Molinari, ha avuto Tardelli, ha avuto altri disegnatori che poi dopo si sono fatti strada a Roma sul Marco Aurelio. C'era un qualche cosa, un fermento che si muoveva nel mondo dell'illustrazione comica e anche del racconto. Però vuol dire, nasce questo Paolo Campani, questo disegnatore di fumetti straordinario, che faceva questo Mysterix o Mysterix, secondo me, o Mysterix per il Sud America, non solo, ma altri fumetti importanti, che sinceramente un disegnatore straordinario. Quindi in certo senso ha fatto scuola? Non solo ha fatto scuola, ma ha creato una grandissima serie di disegnatori che sono usciti, che sono entrati prima nel suo studio, e quindi vuol dire ci sono i Pignardi, ci sono i Berselli, gli Arletti, eccetera. Io rubai infatti quattro animatori alla Paul Film, che vennero a lavorare alla Finder Film a Bologna, che erano appunto i Braunletti, Luano Sogari, Walter Masala e l'Adriano Silvestri, ai quali io gli diedi l'incarico di animare i caroselli, per esempio, non so, di Salomone Pirata Pacioccone, poi ancora prima quelli di Evaristo per la Sera Grey, e poi ancora dopo nacque poi anche la Winterfilm a cartoni animati, capito? Ma quella fu una parentesi molto bella, durò per me a Bologna dal 60 fino al 68, poi io ritornai a Modena, lavorai per 2 anni con lo studio Bignardi, un altro che era uscito dalla Paul Film, e poi mi arrivò la bella, straordinaria, grandissima, immensa occasione di tentare un numero zero per Gulp, e lì nacque la storia di Gulp. Di Gulp, stiamo parlando 1972, prima puntata. 72, la prima serie, Gulp 72, 12 puntate di 15 minuti ciascuna, dove noi fummo invitati dalla Rai, Giancarlo Governi, ispirandosi a un carosello di Paolo Campani, Pupa e Pop Pop. Campani era un direttore straordinario che, oltre a sapere animare in maniera incredibile, riducendo al minimo l'animazione, però comunque comunicando il senso del movimento in maniera stupenda, anche con le inquadrature nuove, con le angolazioni inventate, riusciva però anche, riprendendo soltanto i suoi disegni in successione, a creare una storia. Cosa che io avevo peraltro già fatto con Dick Tracy per conto mio, perché avevo preso Dick Tracy, che era il Dick Tracy di Chester Gould. Chester Gould era un disegnatore che disegnava in maniera cinematografica, come sono oggi gli storyboard che si fanno prima di girare un film. E io mi ricordo che, riprendendo quella mia titolatrice con la verticale e i disegni in fila di un fumetto di Chester Gould, scoprì che era un racconto che si poteva riproiettare, ovviamente con il legno sonoro e tutti gli effetti che si dovevano utilizzare per quella storia, a creare un'atmosfera straordinaria e fare sì che la gente seguisse questa storia come se fosse un cartone animato, ma neanche come fosse un cinema dei poveri. Non vai al cinema, ti guardi questa cosa. Come peraltro è stato sempre il fumetto, io l'ho sempre chiamato il cinema dei poveri, quelli che non potevano permettersi di andare al cinema, prendere il fumetto, sfogliavano questi albumetti ed era come andare al cinema. Un cinema così autarchico, però insomma. Super Gulp! Super Gulp! Super Gulp! Splash, Gulp, fumetti in TV, fumetti in TV, Squash, Sob, Wuff, Gulp, Snap, Sock, Schaff, Gulp, Sniff, Sniff, Gulp, fumetti in TV, fumetti in TV, fumetti in TV. Ciuff, ciuff, gul, tic, tac, dring, gul, ciu, smack, gul, fumetti in TV, fumetti in TV. Guido De Maria, questo Gulp e poi Super Gulp hanno avuto un successo eccezionale, ce lo ricordiamo tutti, hanno fatto compagnia nella nostra infanzia, adolescenza. Ancora oggi è un programma di riferimento per gli anni 70, quando tu parli degli anni 70 in televisione non puoi ignorare Gulp. Assolutamente, no, è diventato un cult decisamente, tu hai preso anche un premio alla regia televisiva per ragazzi nel 1978 e poi però hai lavorato anche con l'altro bolognese che è Bondi. Ricordo che la Rai, appunto, Giancarlo Governi, vedendo questo carosello di Pupa e Bob, disse: beh, se si può fare un carosello si può fare anche una storia più lunga, cioè un fumetto. Quindi chiamò Bondi e me ci incaricò di realizzare un numero zero, ma purtroppo per noi chiamò anche Paolo Campani e il suo grande sceneggiatore Massimo Massimino Garnier, che era quello che aveva inventato i grandi personaggi, Angelino, Totò e Tata, il merendero, sì, il Ma 2000, e ci invitò a creare un numero zero, una prova per portare il fumetto in televisione. Noi ci sentimmo persi, avevamo di fronte a noi due grandi dell'animazione e della comunicazione disegnata, mamma mia. Però guarda come vanno le cose. Mi ricordo che Giancarlo Governi mi disse: abbiamo due personaggi da sviluppare, Petrosino e Nick Carter. Bondi era uno che le cose le prendeva, diceva: per me uno vale l'altro, non frega niente. Io dissi: no, io voglio fare Nick e Carter, siccome dobbiamo prendere in giro un personaggio, fare una parodia, comunque fare qualcosa di divertente, non me la sento di parodiare, di mettere in burletta un Petrosino, che è stato uno che è veramente personaggio realmente esistito, ucciso dalla mafia, per cui sì, non mi voleva entrare in problemi preoccupanti. Allora dissi: non voglio fare Nick Carter. Allora, per me va bene anche Nick Carter. Quindi tornai a casa, scrissi questa prima storia, Il mistero di $10, e Bondi la disegnò. Devi disegnarlo come disegna Dick Tracy, tenendo conto il campo lungo, i primi piani, le angolazioni corrispondenti, il dettaglio. Bond, bravissimo, eccellente, straordinario, regalò tutto quello che poteva regalare la genialità e il talento di Bondi, e nacque questo primo numero zero. Oh, vincemmo noi, E quindi ci affidarono la realizzazione di Gulp, dove Nick Carter ebbe la parte del leone, perché su 12 puntate era presente in quasi tutte le puntate. Per Gulp addirittura Nick Carter questa volta diventò animato il conduttore delle varie storie, cioè è stato il primo programma dove non c'era l'elemento umano. Nick Carter in animazione, animato, raccontava e presentava le varie storie che poi ci presentavano nel programma. Guido, ti chiedo se tu hai conosciuto nella tua infanzia, adolescenza, il pioniere. Io il pioniere. Tu mi dicevi che leggevi il Vittorioso. Sono praticamente politicamente analfabeta, purtroppo, e lo rimpiango. Sì, poi mi sono fatto anche le mie idee politiche, che l'ho sempre seguito da un certo punto in poi, ma dico da un certo punto in poi. Mentre invece bisognerebbe fare politica subito, quando si nasce. Ti racconto sempre che un bambino, quando apre gli occhi e vede che la mamma gli porge le poppe piene di latte per il primo pasto, lui dovrebbe, alzando gli occhi, dire: poppa di destra o poppa di sinistra? E lì fare una scelta politica. Invece io ho fatto come fanno tutti gli italiani: ho preso un po' dall'uno, un po' dall'altro, un po' dall'uno, un po' dall'altro, hai capito? Senza pensarci troppo. Allora, fino a un certo punto della mia vita, per l'educazione che ho avuto, leggevo giornali che facevano parte dell'area cattolica. Quindi il Vittorioso è già abbastanza, non preoccupante, ma insomma, mi aveva stato attenti, Topolino. Quindi il Pionier era guardato come, per carità, hai capito, il peccato, penso un po' te. Però mi piaceva il ciao, hai capito, quando andavo all'edicola che prendevo il Vittorioso, c'era pure anche Pioniere, quindi le tavole di Raul Verdini che mi piacevano, poi c'era Peroni, poi c'era Verdi, insomma, lo sfogliavo di nascosto. Si fa, ma non si dice, si fa, ma non si dice. E chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace, e non ti dice mai la verità. Ah, si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno dice, ma si sa, che ciò si fa, si fa, si fa. Quando noi vediamo due fidanzati, con il papà, con la mamma, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là. Ma se non c'è mamma e papà, fra loro poi si fa quel che hanno fatto tutti, è vero, ma Si fa, ma non si dice. Si fa, ma non si dice. E chi l'ha fatto tace non è che fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa. Sia le mogli tutte in ogni sito, sito? Chiedete ognor che per favore, favor, dicano se han tradito mai il marito. Marito? Io già lo so. Che? Diranno no. Ma se ciascuna vi dirà che questo non si fa, tra sé naturalmente penserà. Si fa, sì, sì, sì, ma non si dice. Si fa, sì, sì, sì, sì, ma non si dice. No, no, no. E chi l'ha fatto tace non è che fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa. Però nessuno dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa. Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo undicesimo. Vedremo chi ultimo riderà, signor Lucifero e Sacra Maestà. Com'era allegro il sor Fernando mentre tornava a Te lo domando. Credevate di farla a me? Vi ho ripresi tutti e tre. E ad insegnarvi chi è il padrone provvederà questo bastone. Il bastone con impegno bastonò le tre teste di legno. Ma chi fu che si spezzò? Il bastone! Le teste? No. La regina, maligna com'era, spettegolò tutta la sera. Guarda chi vedo, i tre giramondo, gli eroi dal cuore vagabondo, tornati al nido, chiotti chiotti, come tre piccoli passerotti. E il diavolo, tutto contento, le faceva l'accompagnamento. A quando la prossima partenza? Prenoteranno forse la diligenza? O puta caso il nuovo viaggetto lo faremo, che ne so, in traghetto? Colombina non resisteva e per la rabbia già piangeva. Arlecchino, per non sentire, faceva finta di dormire. Ma Pulcinella, con filosofia, non perdeva l'allegria. Senza filo ho camminato ed era meglio che stare legato. Io questa zucca ce l'ho per pensare, non per farmela infilare. Vedremo chi ultimo riderà, signor Lucifero e Sacra Maestà. Non vi ho più detto di quel salmone in piccione e chiacchierone, che senza volere fece la spia al sor Fernando Malvasia. Beh, quando seppe della cattura, si batte il petto e giura e spergiura: da oggi in poi, se mi riesce, starò zitto da bravo pesce. Bocca mia, chiusa starai, per non combinare nuovi guai. Ma un vecchio salmone, si sa bene, quel che propone poi non mantiene. E il giorno stesso, per farsi bello, tutta la storia narra a un uccello. E l'uccello era un merlo di passaggio, per la Germania era in viaggio. Era quel merlo che Arlecchino voleva arrostire col rosmarino. Era lo stesso che Pulcinella voleva mettere in padella. Ma poi, scordando la fame e la rabbia, lo fecero uscire dalla gabbia. Insomma, era il merlo prigioniero di quel mugnaio tanto severo. Al racconto del salmone non può trattenere la commozione. Tre marionette, ma sono loro, e dica piuttosto tre cuori d'oro. Con quanta generosità mi hanno ridato la libertà. Ah, poveri amici, su, su, ch'io vada, signor Salmone, mi insegni la strada. Ma cosa vuol fare? Abbia pazienza, un uccellino è un'imprudenza. Per affrontare quel malvasia non basterebbe la cavalleria, ci vorrebbe un carro armato. Signor Salmone, non sono un ingrato, i miei amici libererò, o con loro morirò. Il salmone, borbottando, gli mostra la strada per te lo domando. E ben presto il merlo non fu che un piccolo punto nel cielo blu. Capitolo dodicesimo. Vogliamo una terra felice e onesta, dove nessuno ha un filo in testa. Mentre il merlo col cuore in gola i campi, i prati, i monti sorvola, il giorno passa, la sera scende e il gran teatro apre le tende. Accorrono bimbi, soldati, donnette per applaudire le marionette. Bravi, bravi! Vanno alle stelle le risate mentre raddoppiano le bastonate che Pulcinella, primo attore, prende e regala con grande ardore. Le più secche, ben si intende, è il diavolo che se le prende. La commedia è giunta al terzo atto, con Pulcinella sempre più matto, perché Arlecchino, testa fina, gli ha rubato Colombina. A un tratto s'ode un cinguettio: tweet, tweet, tweet, tweet, twitter, Pulcinella, amico mio. Amico un corno, fa Pulcinella, e giù a bastonate alla donzella. Pulcinella, son qui sul pino. E lui bastona anche Arlecchino. Pulcinella, stammi a sentire, sono venuto per farvi fuggire. E il buon merlo, senza aspettare, sul palcoscenico si va a posare. Pulcinella, dammi un'occhiata prima di darmi una bastonata. Ma chi sei? Che vuoi? Non ti conosco, non disturbare, torna al tuo bosco. Non ti ricordi di me, Arlecchino? Volevi arrostirmi con rosmarino. Il nostro merlo! Scappa, scappa di qua! Oh, malvasia, ti acchiapperà! In quel momento Don Fernando un barilotto stava vuotando. Sente il suo nome, s'arrabbia, s'affaccia, pesta i piedi, grida, minaccia. Questa battuta non era in programma. Voi rovinate il mio bel dramma. Sapete bene che io non permetto che si reciti a soggetto. Questa scena è una novità. Si chiama Viva la libertà! E il merlo col becco, 1, 2, 3, tagliò i fili a tutti e tre. Presto amici, filate via e tanti saluti a Don Malvasia! Arlecchino e Colombina se la svignano in sordina, ma Pulcinella prima il bastone restituì in testa al padrone. Poi, sgusciando tra bimbi e nonnette, si misero in salvo le tre marionette. E sei gambe di legno, ma chi le piglia? Stavolta filano a meraviglia! Nemmeno il merlo ce la fa a superarli in velocità, e salutandoli con uno strido, se ne torna felice al suo nido. Io, poi, sono vecchio. Come farei con due vecchie gambe a correr per sei? Io corro, corro, corro, ho il fiato grosso, ma raggiungerli proprio non posso. Ho il batticuore, mi devo fermare. Ecco, basta, li lascio andare. E dove vanno? Ma questo si sa. Vanno nel paese di libertà. Una terra felice e onesta, dove nessuno ha un filo in testa. Una terra senza padroni, né brutti né buoni. Questa terra, se ancora non c'è, la faremo io e te. Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata. Però quell'isola non c'era, mai nessuno l'ha trovata. Spagni di prua dalla galea, come un'idea. Benvenute e benvenuti a 42 La Risposta. Valentina, Monica. Noi abbiamo qui in studio una graditissima ospite, Sara Colaone. Sara Colaone, per chi non la conoscesse, è un'autrice di fumetti e anche illustratrice. Sara, tu insegni anche all'Accademia di Belle Arti. Noi volevamo entrare un pochino di più nel dettaglio su come si costruisce una storia, come nasce un libro a fumetti. Ecco, volendo dare un consiglio a qualcuno che in questo momento è in ascolto, a una disegnatrice o a un disegnatore, se si ha in testa una storia, da dove si deve partire? Come si inizia? Guarda, io non credo che esistano cose giuste o sbagliate, nel senso che ci sono persone che iniziano disegnando ossessivamente quel personaggio e attraverso questo disegno così ripetuto, piano piano, come dire, costruiscono un mondo intorno a questa figura. Però io credo che quando si ha in mente una storia bisogna anche provare a scriverla. Dobbiamo provare a scriverla, perché scrivendola ci rendiamo conto se delle soluzioni che stiamo pensando hanno un senso oppure no, se proprio le parole che stiamo usando hanno la capacità di evocare delle situazioni oppure no. E le parole, quando restano astratte, rischiano di essere molto generiche e quindi rischiano poi di riferirsi ad immaginari, sì, magari universalmente condivisi, però forse un po' poveri. E quindi, per evitare quell'equivoco basato sulla ricerca spasmodica dell'originalità che si può trovare lavorando seriamente alle cose, io consiglio di scrivere. E poi banalmente si lavora, cioè si scrive tutti i giorni si disegna. Il disegno e la scrittura sono un po' come la ginnastica, cioè uno non può diventare un atleta se non si allena mai, e quindi nella rifinitura costante noi troviamo poi il senso di tante cose. Abbiamo parlato soprattutto del fumetto, invece Sara, nella nuova esperienza che hai vissuto come in prima persona come autrice con il libro Ti ho visto, come hai elaborato, come hai costruito tutta l'architettura che sostà a questa storia per ragazzi? Questo libro che si intitola Ti ho visto e che è uscito per Pelle d'Oca Edizioni è una piccola casa editrice molto interessante creata da Lodovica Cima insieme ad altre persone, che parla proprio di paura, di storie ambientate in un contesto, insomma, in cui le cose che sappiamo come certe vengono un pochino meno. Ne parlo perché in realtà si è scritto, ma ci sono anche molti fumetti dentro e anche molte illustrazioni. È un libro, per esempio, che io ho composto, vi raccontavo della montagna, sulla base di un'idea molto semplice, quella dell'ambientazione. Voglio fare una storia raccontata in montagna. E io ho iniziato a costruire tutti quanti i pezzi. Ok, in montagna che cosa c'è? C'è il freddo, c'è la neve, che cosa c'è? Perché il mio personaggio va in montagna? È stata allontanata da casa perché sta combinando un po' di pasticci, quindi è stata spedita in montagna a rinfrescarsi un po' le idee, come si suol dire. E in montagna cosa trova? Il mistero. Quale mistero? Insegue una creatura immaginaria, una creatura leggendaria di cui si conoscono tradizioni, su cui ci sono c'è molta letteratura. Stiamo parlando ovviamente dell'uomo delle nevi, ma questo uomo delle nevi è metafora di cosa? È un uomo peloso, lei è un adolescente, stanno crescendo i peli sul corpo, e questa è una cosa che genera imbarazzo verso chi? Quindi a pezzi si inizia a costruire tutto un percorso che a volte ci porta in vicoli ciechi, ma non lo sappiamo se non lo scriviamo. A volte invece ci dà delle situazioni interessanti. Quindi quest'idea della creatura pelosa mi ha portata, ad esempio, verso la criptozoologia, che è una branca di, come dire, non esattamente di zoologia, ma è quell'insieme di studiosi che tramandano, studiano le storie di creature immaginarie, quindi il Kraken, esattamente, il drago della Romagna, tutte queste cose qua. E quindi mi ha portata da una parte a ragionare sulle metafore e su quello che gli animali fantastici vogliono significare nel nostro mondo, e dall'altra a riagganciarci a delle cose che sono concrete nella letteratura per ragazzi, esempio l'ossessione per la catalogazione, l'idea dello studio della conoscenza, il dominio del proprio piccolo universo. Quindi dal freddo all'immaginario al corpo andate e ritorno. Però ripeto, non avevo idea di che avrei parlato di creature immaginarie finché non ho iniziato a scrivere un piccolo plot in cui ho iniziato ad attaccare dei pezzi che mi sembravano le strade possibili, e poi è venuto fuori questo racconto. E tu quante ore dedichi al giorno al disegno o alla scrittura? Il mestiere di un disegnatore è quello di lavorare sempre, nel senso che non esiste un momento in cui non pensi a quello che fai, anche in termini un po' angoscianti, a quello che avresti dovuto fare per ieri e quello che devi fare per dopodomani. E il nostro modo di guardare è un modo costantemente alla ricerca di elementi. Mi è capitato ultimamente di fare dei libri in un tempo veramente molto breve, ma semplicemente perché mi sono accorta che in moltissimi anni avevo quasi fotografato con gli occhi una serie di situazioni e di immagini che sono entrate a far parte un po' del mio modo di pensare, di costruire l'immagine. Questa teoria dello sguardo attento è quella che poi sorregge tutta una teoria molto più ampia che riguarda gli immaginari che vengono trasmessi e condivisi, quegli immaginari appunto di transcultura, per cui noi riusciamo ad agganciare lettori lontanissimi nel tempo, nello spazio, che ci permette poi di relazionarci con persone che hanno delle vite, delle cose molto diverse dalle nostre. Però se dovessi quantificare, potrei dire che io dedico sicuramente in questo periodo 3 ore di disegno al giorno, 4 ore di risposta alle mail e sicuramente un paio d'ore a leggere e a cercare di mettere in ordine degli spunti e degli stimoli visivi. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va?